Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Benvenuti, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano, una mezz'ora di approfondimento delle notizie del giorno. Oggi abbiamo ospite Guido Gentili, buongiorno Guido. Buongiorno. Guido Gentili è editorialista del Sole 24 Ore, ha scritto oggi sulla prima pagina un articolo, Quei pesi eccessivi sull'industria europea, dove si fa il punto alla vigilia del vertice europeo, lo avete sentito nel GR poco fa, sul problema appunto di dare un obiettivo di miglioramento della situazione climatica attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 del gas serra. Ecco, obiettivi ovviamente che nessuno discute a lungo termine, il riscaldamento climatico e i cambiamenti climatici sono una realtà che va contrastata, il problema è il come, il quanto e in che modo. Allora Guido Gentili, qual è il problema sul tappeto oggi e domani a Bruxelles? Ma il problema in due parole è questo, che il pacchetto europeo energia e clima che è stato approvato più di un anno e mezzo fa, per precisione nel marzo del 2007, ora entra nella fase in cui si dovrebbero essere fissate le date della sua applicazione e dovrebbe scattare sostanzialmente a partire dall'anno prossimo. Questo pacchetto, che è noto anche come 20-20-20, appunto per abbattere del 20% entro il 2020 le emissioni di gas serra, ridurre del 20% i consumi energetici e portare al 20% l'uso di energia da fonti rinnovabili, costa molto. Alcuni calcoli che sono stati fatti recentemente dal governo, che ha aggiornato quelli europei e del governo precedente, del governo Prodi, indicano in una spesa di 180 circa miliardi in 7 anni. Ecco, quindi per l'industria europea ci sarebbe quest'onere aggiuntivo. Tu hai parlato di questo obiettivo del 20-20-20. Io mi permetto di dare un altro numero per le telefonate degli ascoltatori, l'800-24-0024, su questo ma anche su altri argomenti di attualità. Quindi dicevi, è un onere molto forte, un onere che era stato in fondo deciso qualche mese fa, qualche anno fa, in tempi probabilmente, esatto, anzi sicuramente diversi rispetto agli attuali. Prima della bufera finanziaria che si è abbattuta sui mercati di tutto il mondo, prima che si decidessero dei piani straordinari di intervento pubblico a sostegno delle banche, prima che avessimo una ricaduta importante sull'economia reale, perché oggi parliamo ovviamente di recessione e quindi con tutto quello che ne consegue. Quindi questa spesa addizionale andrebbe quantomeno riparametrata nei tempi. Quindi c'è un po' una contraddizione sul fronte europeo, da una parte si interviene per aiutare le banche, per aiutare quindi indirettamente anche le imprese, dall'altra parte si pongono degli oneri ulteriori. Ecco, c'è anche un altro fatto da non dimenticare, che l'Europa ha assunto sì degli obiettivi in parte ambiziosi ma in parte anche doverosi, ma gli altri paesi, gli Stati Uniti, gli altri grandi paesi come la Cina, su questo fronte non fanno altrettanto. Guido Gentili. No, certo, è proprio così, questa è una delle asimmetrie che noi dobbiamo rilevare, cioè Stati Uniti, India e Cina, a partire da questi tre paesi che sono dei grandi paesi consumatori di energia, hanno le mani libere su questo terreno, al contrario dell'Europa che si è autovincolata a quello che è il protocollo di Kyoto e che ha stabilito unilateralmente questo pacchetto 20-20-20. Quindi anche questo è un dato che deve far riflettere, perché alla fine il contributo alla riduzione delle emissioni dei gas nel 2020 dell'Europa sarà del 2% con la spesa che abbiamo visto, e per l'Italia dello 0,3%. Quindi effettivamente sono cifre che fanno riflettere. Ecco, c'è già un SMS da parte di Carlo, te lo giro, dato che sei ancora in linea, mi chiede: ma il governo italiano saprà difendere le regioni dell'industria italiana? Ma io me lo auguro. Per la verità il governo italiano, con i ministri recentemente, con i ministri Frattini, con il ministro Ronchi, quello per le politiche comunitarie, e il ministro Prestigiacomo dell'ambiente, hanno fissato una posizione che quest'oggi insieme a Berlusconi sarà al centro dell'incontro del Consiglio europeo, e quindi che chiede sostanzialmente di rivedere il pacchetto 2020. E lo fa potendo contare tra l'altro sul sostegno di altri paesi che sono molto perplessi, a partire dalla Spagna e dalla Polonia, ma la stessa Francia sembra che stia cambiando posizione, e in particolare la Germania anche sta convergendo su questo punto. Quindi è probabile che avremo, diciamo, delle decisioni in questo senso tra oggi e domani. Ecco, c'è un altro SMS, Filippo da Catania, che mi dice, ecco, in Italia stanno iniziando in questi giorni, e danno molto rilievo i giornali, le manifestazioni degli studenti di protesta contro la riforma. E io mi aggancio a questo, magari se vuoi anche darci la tua opinione sulle manifestazioni della scuola, ma per richiederti, ma nell'opinione pubblica invece, secondo te, c'è abbastanza sensibilità sui temi ambientali, ma anche sul tema di sostenere la crescita economica industriale del paese? Beh, sì, questo ovviamente è un tema, come dire, un po' più difficile da far passare dentro l'opinione pubblica, però è un fatto che tutti oggi noi facciamo i conti con una crisi senza precedenti, una crisi che non è rilevabile solo sui mercati finanziari o solo recandosi in banca quando si va a contrattare il proprio mutuo per la casa, ma è una crisi che noi vediamo, diciamo, in termini di caduta dei consumi, in termini di caduta di potere d'acquisto delle retribuzioni e in termini che avremo presto di ricaduta sull'economia reale a motivo della recessione. Quindi credo che questo tema si farà strada sempre di più. Quindi la crisi è una crisi ormai reale, con la recessione tutti prevedono che ci sia, probabilmente dobbiamo sperare che anche con l'azione di tutti, in fondo lo ricordava Piero Stellino dell'editoriale del Corriere della Sera, l'economia va avanti con la forza non solo delle decisioni pubbliche ma anche di tante, anzi di migliaia di decisioni private. Forse creare un clima in cui si ha maggiore speranza di superare una crisi potrebbe essere positivo. Con questo voglio concludere. Guido Gentili. Sì, sicuramente così. Lo sforzo è certamente quello dei governi in questo momento, uno sforzo eccezionale che ci auguriamo tutto sia semplicemente temporaneo. Però spetta anche, diciamo, ai cittadini, agli individui, prendere coscienza di quella che è la realtà e probabilmente anche tutte queste manifestazioni che sono previste, che sono manifestazioni di protesta, dovrebbero tener conto di quello che è il contesto non solo nazionale ma internazionale, e quindi, diciamo, uno sforzo collettivo di responsabilità sarebbe certamente auspicabile. Ti ringrazio Guido, grazie di essere stato con noi. Passerei la linea a Michele da Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei, sono Michele da Milano, mi congratulo per la trasmissione. Volevo intervenire in merito appunto agli sprechi di energia che ci sono a livello mondiale e alle poche idee che, da quello che mi risulta, vengono messe in atto. Tenga conto che abbiamo energia che viene veramente sprecata enormemente e non si prendono iniziative. Innanzitutto io mi chiedo, lei sa benissimo che è stata fatta un'auto ad aria, va bene? A questo punto mi chiedo che fine abbia fatto quell'auto che è stata presentata all'autosalone a Bologna, viste... Pronto? Sì, la sento anche visto... se ho qualche perplessità. Sì. Mi dica. No, mi chiedo che fine abbia fatto quell'auto che è stata presentata a Bologna qualche anno fa, e non se ne sa più nulla. Bah, guardi... parliamo tanto di energia, parliamo tanto del costo del petrolio, parliamo tanto di tutte queste cose. Io mi chiedo che fine abbia fatto quell'auto, non solo. Ma poi vedo che si spendono tanti soldi pensando di far bene. Non è vero, glielo posso garantire, io sono un artigiano. Ecco, io la ringrazio, non entriamo poi nei particolari. Ovviamente il risparmio energetico è una grandissima risorsa e anzi forse la maggiore risorsa che un paese come l'Italia può avere per ridurre i consumi di energia e quindi per acquistare meno energia dall'estero. Lei accennava all'auto ad aria, ecco, io forse ne ho sentito parlare vagamente, non sono un tecnico, penso che sia stato un prototipo, perché forse più che di aria si parlava di auto ad idrogeno, quindi un componente che in natura è molto diffuso. Nell'acqua c'è una parte di idrogeno, non voglio fare lezioni di chimica, non ne sarei capace, e quindi forse l'obiettivo per uscire da questi legami stretti tra il petrolio e i consumi energetici, il petrolio è alla base poi sia dei carburanti per autotrazione sia di molte centrali elettriche, il petrolio o il gas naturale, quindi l'idrogeno viene visto come un'alternativa proprio al petrolio e quindi alla benzina. Però ecco, ci sono sono certamente delle auto sperimentali, delle auto che circolano, però delle auto in cui rendimento, la cui capacità appunto di avere dei costi inferiori alle auto attuali è ancora tutto da verificare e quindi richiederà delle sperimentazioni molto forti. L'industria automobilistica è un'industria molto diversificata, ci sono molte case automobilistiche. Se una casa automobilistica avesse un'automobile che costi meno, che consumi meno, che faccia spendere meno, sicuramente la metterebbe sul mercato per vincere la concorrenza e per fare un vero e proprio business. Quindi su questo fronte non dobbiamo pensare che ci sia un complotto di qualcuno per farci consumare di più. Come dicevo prima, forse è più la responsabilità di ciascuno ad stare attento a ridurre un po' i propri consumi, ad andare meno in automobile, ad usare più la bicicletta, magari andare anche un po' più a piedi, ad usare meno i riscaldamenti, ad usare meno le fonti energetiche, e la somma di tanti, di milioni di comportamenti virtuosi può forse aiutare, anzi può sicuramente aiutare a risolvere, ad affrontare appunto il problema energetico. Adesso ci fermiamo un attimo per sentire le notizie del traffico. Che strada fa? La situazione è sempre più critica in prossimità dei tratti in cui ci sono gli incidenti, come sull'autosole tra Bologna, Casalecchio e Modena Sud verso Milano, ancora lunghe code anche se l'incidente sembrerebbe risolto, avvenuto all'interno di una riduzione di carreggiata, però ce n'è un altro lungo il tratto appenninico dell'autostrada, si è verificato tra Pian del Voglio e Barberino in direzione Firenze. Poi sulla 7 Milano-Genova troviamo code tra Casei Gerola e Gropello Cairoli verso Milano, 3 chilometri dopo un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. In via Salaria, nel Lazio, c'è un incidente tra Rocca Sinibalda e Maianello in entrambe le direzioni. Un cantiere tra Cerveteri e la Dispoli causa code sulla Roma Civitavecchia in direzione proprio capitale. Traffico intenso, l'ora di punta in prossimità di tutte le città. Ricordiamo a Milano al via Lusmau presso Fiera Milano City. A Torino è in atto invece un presidio in corso Peschiera. Chiusa la carreggiata laterale sud tra via Isonzo e corso Trapani. E noi ci sentiamo tra un'ora. Zurich Connect, sono Anna. Ah, sbagliato numero. Cercava Zuritel. Abbiamo cambiato il nome, ma il risparmio sulla polizza auto è sempre sorprendente. No, e che? Ieri Zuritel, oggi Zurich Connect. Le faccio un preventivo? Io cercavo un teatro. Zuritel diventa Zurich Connect, ma la sostanza è sempre più risparmio senza compromessi. Scopri come ottenere 2 mesi gratis sulla tua polizza auto. Ne paghi 10 e sei assicurato per 12. Chiama all'848 58 85 85 o vai su zurichconnect.it. Teatro? È forse un invito? Dietro la notizia. Grazie, bentornati a Dietro la Notizia. Stavamo parlando di temi energetici, di temi ambientali. Mi fanno notare alcuni messaggi SMS che l'auto ad aria di cui parlava l'ascoltatore era non tanto l'auto ad idrogeno, a cui poi mi sono riferito io, ma l'auto ad aria compressa, anche questa un prototipo appunto presentato. Non sono, come vi dicevo, un tecnico per sapere se quest'auto ad aria compressa potrà avere un futuro. Certamente tutte le strade possono essere seguite, anzi devono essere seguite, per cercare di diversificare le fonti energetiche. Il problema è che certe soluzioni aggravano i problemi invece di risolverli, ma non so se è questo il caso dell'auto ad aria compressa, ma seguiremo anche questo argomento. Abbiamo al telefono Beatrice da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo dire che non sono d'accordo con le opinioni espresse all'inizio della trasmissione in termini di patto ambientale, e il patto ambientale che è stato appunto dichiarato dall'Europa, perché secondo me l'Italia già non sta rispettando il patto di Kyoto e quindi già era comunque in qualche modo infrangeva delle regole che si sono imposte. Di conseguenza è un po' ipocrita dire che oggi l'Italia a causa della crisi economica non potrà rispettare il patto 20-20-20, e tra l'altro su vari blog e siti online già da un mese era esplicito che l'Italia non avrebbe voluto rispettare questo 20-20-20 prima della crisi economica, quindi comunque mi sembra che l'Italia si debba mettere in regola in ogni caso e assumere un atteggiamento diverso proprio i temi ambientali. Sì, la ringrazio, il tema è certamente importante, ma non è solo un tema italiano, si parla di industria europea, l'Italia fa parte dell'industria europea, l'industria italiana è un'industria che compete ma collabora e deve competere insieme all'industria europea verso un'industria globale, sui mercati globali, quindi non è un problema solo italiano, quelli di costi che entrano e che le imprese devono sostenere per rispettare questo protocollo di Kyoto, questi obiettivi che si dà l'industria europea. Ecco, qui si tratta di indicare il fatto che non si discute la necessità di andare su questa strada, si discutono solo i tempi, si discutono i metodi, si discute la possibilità in questa fase di prendere anche per l'industria delle misure che possano appunto aiutare la competitività, proprio per non contraddire le altre misure che i governi e le banche centrali stanno prendendo per cercare di limitare al massimo la recessione. L'obiettivo dell'equilibrio ambientale, della riduzione dei gas serra, della riduzione del riscaldamento globale è certamente un obiettivo che deve restare prioritario, che deve restare di fronte alle veramente alle strategie che l'industria e i governi devono avere. Il problema è che questo obiettivo deve essere il più possibile condiviso a livello globale e deve essere più possibile sostenere, deve essere più possibile sostenibile anche a livello nazionale. Quindi si tratta di fare dei passi con realismo, con pragmatismo, senza avere delle ambizioni che possono essere, come dicevo, peggiori dei rimedi che si vogliono cercare. Marco da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io ho ascoltato la vostra discussione e credo di poter dire che l'Europa già da tempo soffre, a parte l'incomprensibilità spesso e volentieri delle proprie azioni interne, delle proprie disposizioni interne, ma soffre di un masochismo che oramai sta diventando imperante. In che senso? Nel senso che noi già dal punto di vista commerciale ed economico e finanziario con il mondo e in particolare con l'Asia noi combattiamo come un pugile che combatte con una mano dietro la schiena, perché per quanto riguarda il mercato del lavoro in Cina e in India si può fare tutto quello che si vuole e poi si manda il prodotto a costo simile zero qua da noi, e le nostre aziende dovrebbero competere in questo modo. Quindi già da questo punto di vista l'Europa è masochista. Adesso ulteriormente ci si viene a dire che oltre alla crisi finanziaria, ma indipendentemente da questa, noi si vuol fare i virtuosi, mentre gli altri fanno quello che ne hanno voglia, noi facciamo i virtuosi, ci tagliamo i cosiddetti per fare quelli che stanno dietro all'ambiente, che poi è una cosa tutta da dimostrare, con effetti secondo me abbastanza relativi sul piano globale e, come dicevate voi, anche sul piano interno, e nel frattempo l'Asia fa quello che ne ha voglia e giustamente gli Stati Uniti dicono: noi siamo d'accordo nell'andare in una certa direzione, ma se ci stanno tutti. Mi sembra che l'impostazione americana sia quella più corretta. Sì, la ringrazio di questo intervento. Indubbiamente l'impostazione americana è un'impostazione che parte da un punto di forza, bisognerebbe partire da un punto di collaborazione, cioè non aspettare che altri facciano il primo passo, ma mettersi d'accordo perché tutti facciano insieme dei passi in avanti su questo fronte, perché appunto gli oneri sono forti, ma indubbiamente gli obiettivi sono molto rilevanti, perché i pericoli che derivano dal riscaldamento ambientale sono pericoli evidenti, li vediamo già adesso, per l'insieme dell'umanità. Quindi sarebbe giusto che tutti aderissero al protocollo di Kyoto, che tutti facessero dei passi davanti, ed è profondamente ingiusto che alcuni, proprio perché altri aderiscono, abbiano dei vantaggi competitivi rispetto a questi paesi. Quindi l'Europa in questa fase dovrebbe diventare una realtà capace di imporre una collaborazione, anche se le due parole possono essere in contraddizione, imporre una collaborazione a tutti gli altri paesi, anche alla Cina, anche all'India, anche agli Stati Uniti, per muoversi in questa direzione e per quindi tornare tutti sullo stesso piano dal punto di vista della competitività. Vi devo leggere anche alcuni messaggi SMS. Sembra che la prima telefonata in cui si parlava di questo motore ad aria abbia suscitato molto interesse. Ecco, ci sono dei messaggi anche un po' contraddittori, perché alcuni dicono l'auto ad aria compressa esiste, è in vendita, la si può comprare, e quindi chi è interessato può informarsi meglio guardando anche Discovery Channel, dove mi pare che se ne parli. Altri dicono l'auto ad aria compressa l'hanno fatta sparire per interessi economici, e quindi la visione sembra essere diversa. E io non so se quest'area, vi dico, non sono un tecnico di automobili, vado in bicicletta e quindi cerco di risparmiare sotto questo profilo. Ecco, non so se l'aria ad aria compressa sicuramente esiste, non so se è regolarmente in vendita, non so se il suo uso, il suo funzionamento è economico ed è tale comunque di garantire a chi lo utilizza dei vantaggi dal punto di vista della economicità di gestione e anche delle prestazioni, perché comunque anche l'automobile deve avere delle prestazioni. Non so come si fanno, come si potrà fare il rifornimento ad un'auto ad aria compressa, probabilmente nello stesso modo con cui si gonfiano le gomme si gonfierà il motore, però io su questo, ripeto, sono un profano. L'importante forse in questa discussione è l'aver sollecitato un po' l'attenzione di tutti a questo tema. Il tema climatico è un tema importante, ma è anche un tema che va collegato con la realtà sociale. In fondo non si può pensare di raggiungere degli obiettivi facendo dei passi che sono contrari allo sviluppo economico, alla crescita. Lo sviluppo economico deve essere ecocompatibile, essere con l'ambiente, essere a fianco dell'ambiente, ma cercare di rispettare anche la possibilità di crescita. Io vi ringrazio e vi do appuntamento per domani, ringraziando anche Carmelo Lauricella in regia.